24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. 8:20, mercoledì 8 luglio, inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella, ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori e per la rubrica consueta Tutto il mondo e paese, andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel nuovo governo francese, perché a parte il fatto che il prossimo 16 luglio il nostro presidente del Consiglio Conte incontrerà Macron, ma a parte questo, siccome per settimane in Francia si era parlato di rimpasto e poi si è fatto un governo quasi nuovo, e siccome in Italia si parla di rimpasto da un po', chissà che le strade parallele di Italia e Francia non si ritrovino anche su questo. Perché è interessante quello che sta succedendo in Francia? Perché Macron ha fatto fuori tutti i ministri della sua prima onda. Erano giovani, erano tecnologici, erano sconosciuti e li ha rimpiazzati con dei nomi noti al grande pubblico, per esempio la nuova ministra della cultura, Bachelot, è un personaggio noto. Molto noto è l'avvocato che è diventato ministro della giustizia, un personaggione da TV. Lo stesso premier, Castex, è un uomo che è stato molto vicino a Sarkozy. Tutti i nuovi ministri sono più o meno spostati a destra, e questo perché Macron pensa che alle prossime elezioni, per l'elezione del Presidente della Repubblica, che non sono più tanto lontane, ebbene, la linea populista, la linea diciamo che può metterlo in difficoltà, quella che va dai Gilets jaunes a Marine Le Pen, è più forte della linea ecologista, verde di sinistra, che pure ha vinto alle recenti elezioni amministrative. E quindi punta su questo. Senti Maria, ma il cambio a destra, proprio come succede nelle chiacchiere per ora in Italia, dove un Berlusconi che tende la mano al governo per votare il MES oggi potrebbe diventare un interlocutore di governo domani, proprio come il Sarkozy, ex presidente della Repubblica, viene visto come un regista di questo movimento dietro Macron. Sì, anche se ovviamente lui nega ancora una volta. Oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera a Tommaso Labate, nella quale dice, insomma, se il MES arriva in Parlamento noi lo votiamo, però non faremo mai da appoggio esterno a questo esecutivo. Quello che ti volevo chiedere, Maria, c'è anche un ministro accusato di stupro, su questo ci sono un po' di proteste in Francia. Ed è molto interessante, Simone, che io ho guardato ovviamente un po' velocemente i quotidiani francesi stamattina, ma non mi è sembrato di trovare, non su Le Monde e non su Le Figaro, accenni a questo, mentre Libération ieri ha dato grande risalto. Questo nuovo ministro che ha preso il posto di Christophe Castaner, ministro dell'interno, è un anche lui è uno considerato vicino a Sarkozy, quindi conferma la barra a destra, e mentre Christophe Castaner, durante gli scontri che c'erano stati anche nelle periferie francesi nei mesi scorsi, le proteste dopo la morte dell'americano George Floyd, ecco, Castaner era stato molto duro rispetto ai poliziotti che picchiavano i manifestanti. Ecco, il nuovo ministro dell'interno sta piuttosto dalla parte della polizia. E le polemiche sul fatto che è stato sotto, diciamo, indagine per due denunce di sexual harassment, ben due, una è stata chiusa, archiviata, l'altra è ancora in corso, ebbene, questo non viene molto messo in rilievo né dalle Figaro né, mi è parso, dalle Monde, ma posso sbagliare perché li ho letti ovviamente molto rapidamente stamattina, e quindi non è chiaro. Beh, sul fronte europeo oggi c'è da segnalare anche la seconda tappa del tour del Presidente del Consiglio nei paesi, soprattutto del Sud Europa. In questo momento tu citavi l'incontro che avrà con Macron nei prossimi giorni. Miami, oggi sarà invece, lo abbiamo detto, alla Moncloa, dove incontrerà il premier spagnolo Pedro Sanchez, che oggi rilascia un'intervista sempre al Corriere della Sera, in questo caso con Aldo Cazzullo. Parla di un patto Italia-Spagna per la svolta nell'Unione Europea. Ieri Conte ha smentito e ha detto non parleremo di MES, non parleremo di fondo salva stati. Oddio, se dovesse entrare nelle discussioni ne parleremo, però in realtà molti leggono in questi viaggi in Portogallo, in Spagna, il tentativo di convincere questi leader a metterci il piedino anche loro per poter convincere anche la maggioranza delle loro opinioni pubbliche. Esatto, soprattutto della nostra opinione pubblica, cioè in maniera da poter dire: ah, avete visto, anche gli spagnoli e i portoghesi prendono il MES, e allora forse potremmo prenderlo anche noi, no? Però appunto nell'intervista che citavi, il premier spagnolo Sanchez spiega che avendo loro una situazione di debito pubblico diverso, non sono per ora molto di debito pubblico diverso, vedremo, e soprattutto Maria, di debito pubblico diverso, sì. E soprattutto di finanziamento, cioè possibilità di finanziarsi sul mercato, naturalmente a tassi più bassi, perché poi questo è il fondo, il motivo per il quale si dice che l'Italia potrebbe muoversi e prendere il MES. Allora, di questo sicuramente torneremo a parlare nei prossimi giorni, perché tra l'altro si svolgerà un Consiglio europeo la prossima settimana, nel quale evidentemente questo elemento entrerà e sicuramente sarà al centro della scena. Intanto veniamo proprio alle questioni con le quali il MES potrebbe essere finanziato, ossia le questioni sanitarie. Dovremmo avere in linea Pierpaolo Sileri, vice ministro alla salute, che saluto. Buongiorno Sileri, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. La prima domanda che le voglio fare però ha a che fare con una questione strettamente sanitaria, ed è la vicenda dei cittadini in arrivo dal Bangladesh. Oggi il Messaggero dice che dal vostro ministero stimano che ci possano essere 600 cittadini del Bangladesh arrivati regolarmente in Italia, ossia residenti in Italia normalmente, che sono sfuggiti ai controlli e potrebbero essere positivi al Covid. Ci conferma questa cifra, ministro? Vice ministro? Allora, sicuramente è una cifra vicina a quella che avete detto, e quindi è in atto un'opera per rintracciare. Ovviamente a questo punto poi andrà fatto tutto il link epidemiologico tamponati e quant'altro, però sì, e questa è una delle ragioni per la quale i voli sono stati poi bloccati, in virtù del fatto che i test fatti nella giornata di ieri su coloro che erano atterrati hanno mostrato un numero altissimo di soggetti positivi ed essi serologici, e poi alcuni di essi ai tamponi, e quindi un vettore aereo virale che poteva determinare dei casi di rientro e quindi nuovi focolai. Maria, prego. Ecco, ci sono quasi tutti, diciamo, gli esperti, ma ne cito due, che sembrano essere preoccupati per una nuova onda di Covid. Cito l'intervista di questa mattina alle Figaro di Jérôme Salomon, che è il direttore generale dell'Istituto di Sanità francese, il quale dice: è bene prepararsi a una nuova ondata di epidemia. Anche un altro famoso infettivologo al capo dell'Istituto Americano per le Malattie Infettive, Anthony Fauci, dice: è possibile che la decisione di sospensione dei voli possa riguardare, non dice lui ma lo pensiamo noi, vista la situazione impantanata, così l'ha definita Fauci, degli Stati Uniti. Allora, ci dica una parola di chiarezza dopo che appunto un importante esperto come Jérôme Salomon, ma anche Anthony Fauci, lasciano intendere che la seconda ondata molto probabilmente ci sarà. È così? Allora, nessuno di noi può dire con certezza se ci sarà o non ci sarà una seconda ondata. Quindi chiunque dice ci sarà o non ci sarà, ovviamente è più una sensazione che un fatto. Allora parliamo di fatti, perché anch'io ho detto non credo che ci sarà una seconda ondata nella forma di come insomma abbiamo osservato la prima ondata. Ora, perché dico questo? Perché il virus probabilmente nel mese di settembre-ottobre potrà riprendere un po' di vigore, arrivando l'autunno e poi successivamente l'inverno, magari incomincerà a diffondersi un po' di più. Però partiamo dall'evidenza attuale. L'evidenza attuale è che dopo il lockdown, dopo l'utilizzo di mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani, eccetera, eccetera, il virus circola molto meno. Allora, il mio pensiero è questo. Se siamo riusciti a contenere la diffusione del virus grazie a delle norme inizialmente imposte e successivamente permeate nella quotidianità di molti di noi, direi nella quasi totalità, perché chi non rispetta le regole, a dire il vero, sono pochi. Non andrei adesso ad accusare i ragazzi che si bevono una birra a mezzo metro di distanza per pochi minuti, voglio dire. L'effetto è stato posti in terapia intensiva calati drasticamente, posti in ospedale di pazienti infetti calati, i nuovi infetti sono positivi e non dei casi di malati, nella stragrande maggioranza dei casi, rafforzato il Servizio Sanitario Nazionale in termini di posti letto, in termini di miglioramento della numerosità dei tamponi fatti. Allora, perché io oggi dovrei pensare che nel mese di ottobre, improvvisamente, abbandonando tutto ciò che stiamo facendo, può esserci un rischio, ma non abbandonando ciò che stiamo facendo, perché dovremmo ritrovarci con 1000 morti al giorno? Allora specifichiamo cos'è la seconda ondata. Se per seconda ondata intendiamo che il virus continua a circolare in una forma molto lieve, come stiamo osservando oggi, magari con qualche focolaio in più con la ripresa del periodo autunnale ed invernale, certo che è possibile, ma se per seconda ondata intendiamo 1000 morti al giorno, come abbiamo visto nel mese di marzo, la vedo francamente improbabile, perché significherebbe tornare indietro di molti mesi, abbandonare tutto ciò che abbiamo fatto, dimenticandoci che il virus esiste, e ritornando a un numero di posti letto in ospedale alla situazione antivirus, senza conoscenza del virus stesso. Capite bene che non è così. Quindi seconda ondata possibile, ma abbiamo imparato a difenderci, abbiamo imparato a stare più lontani, abbiamo imparato a contenere il virus. Quindi il virus fa parte delle malattie che nei libri di medicina oggi abbiamo una malattia in più, questa da nuovo coronavirus. Finirà quando? Sì. Quando ci sarà un vaccino, oppure quando il virus muterà in una forma svantaggiosa per lui, o vi sarà un'immunità di gregge. Fino a quel momento il virus è fra noi e siamo in grado di contenerlo, come abbiamo dimostrato. Sileri, abbiamo tempo, e lei ha tempo anche solo per un ultimo paio di domande molto veloci, e quindi una gliela faccio io, una gliela farà Maria Latella, e la mia riguarda ancora la questione di Roma e dei voli da Dacca. Avete intenzione di fare controlli estensivi sulla popolazione bengalese della capitale? Controlli laddove eventuali link epidemiologici riportano. È chiaro che se i link epidemiologici, diciamo, da un soggetto positivo ci porta in un'area o non so, in un palazzo o laddove sono presenti molti sospetti positivi, è chiaro che li devono. Però ci sono margini di irregolarità, Sileri, che forse non consentono di identificare tutto questo. Purtroppo questo va messo in conto ed esiste. Ripeto, il blocco dei voli fa sì che all'origine venga impedito il nuovo, diciamo, il passaggio di virus da aree ad alto rischio, quindi proprio alla radice, alla sorgente. Maria, prego. Senta, Sileri, si torna a scuola finalmente, dico io, il 14 settembre. Lei pensa che il progetto di sottoporre a test sierologici, attuare i necessari controlli nelle scuole italiane, incontrerà delle difficoltà di attuazione? Non credo, perché ci stiamo preparando e come vedete l'utilizzo dei test serologici e dei tamponi diventa sempre più ampio, come avete visto per il volo che è arrivato. Quindi abituiamoci all'idea di test serologici e tamponi su una larga fetta della popolazione. Abituiamoci a questo, perché questa è la via per riprendere. Finché abbiamo il virus circolante, l'unica via per riprendere è dare la sicurezza dell'assenza del virus in determinate fasce della popolazione. Le faccio un esempio per tutti, lei mi ha fatto l'esempio della scuola, per come la penso io, secondo me i tamponi andrebbero fatti anche a coloro che arrivano da area extra Schengen, non da area ad alto rischio, perché da area ad alto rischio il volo bloccato l'abbiamo dimostrato, ma a mio avviso andrebbe fatto il tampone quando si arriva, quarantena per pochi giorni, 4-5 giorni, ripeti il tampone, tampone negativo, elimini la quarantena, perché l'Italia deve anche ripartire. Serve un modello e una testa diversa rispetto a quella che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Abbiamo cambiato molto rispetto al pre-virus, dobbiamo cambiare ulteriormente, dobbiamo convivere con il virus e convivere in sicurezza. La sicurezza deriva test serologici e tamponi, anche perché altrimenti anche il turismo in Italia muore, perché se tu a una persona gli dici devi venire in Italia ma stai 14 giorni fermo, quello chiaramente non, no, ci viene. Non ci viene, non ci viene. E allora è molto meglio che tu arrivi, tampone, lo fermi per 5 giorni, tanto l'incubazione nella stragrande maggioranza è 4-5 giorni, lo fermi per 5 giorni in quarantena, e altro poi tampone negativo e poi lo lasci libero. E poi no, libero. Sì, chiaro. Grazie per Paolo Sileri, grazie Vice Ministro della Salute. Buona giornata. Una pausa e poi andiamo dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ed eccoci di nuovo, Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Maria, vuoi iniziare tu? Ministro. Vai, prego. Allora, sarei tentata di cominciare con autostrade, perché la notizia di oggi che ci dà la stampa è che per questioni di regole sarà proprio Autostrade quella che gestirà il nuovo ponte di Genova, almeno fino a quando avrà la concessione. Ce lo conferma, però scusa, sì. Perché non iniziamo proprio da questo, sì. Se ce lo conferma, Ministra, sì. Questo? Sì, la lettera al Sindaco Bucci l'ho firmata io. Quindi confermato. Al sindaco Bucci ho mandato una lettera perché avevamo avuto una riunione qualche giorno fa nella quale lui aveva chiesto e forse aveva anche scritto quali dovessero essere i percorsi prima dell'inaugurazione del ponte, e io gli ho confermato tutta la procedura di collaudo, della consegna e ovviamente anche quella della gestione post inaugurazione, che è appunto una gestione che va al concessionario. Ne abbiamo scritto questo, ovviamente in questa fase concessionario ASPI, e poi come sapete tutti questa vicenda è soggetta, diciamo così, ad un'ultima fase dopo questo faticosissimo percorso che per me dura da 9 mesi da quando sono ministro, sulla vicenda della revoca e sulla vicenda degli inadempimenti delle manutenzioni. Quindi in questa fase Chiaro, chiarissimo. Questa è l'opzione, la soluzione che io stessa ho firmato e inviato al sindaco. Nel suo ruolo di commissario. Prego, e poi Maria. Se ci sarà la revoca della concessione, ovviamente salterà comunque un concessionario ci sarà sempre nel senso, certo. Diciamo così, sicuramente nell'immediato futuro, nel senso che le autostrade e quei tratti saranno comunque gestiti sempre da un concessionario. Maria, vai. Ecco, quindi chiarito questo, è chiarito che ci torneremo però su autostrade, però adesso quello che mi stava a cuore... Immagino che non se ne possa fare sì, a meno. Sì, no, non mancherà, però la notizia è che ci sono queste 130 infrastrutture strategiche e che alcune di queste saranno commissariate. Allora, io le chiedo, quali sono quelle... di competenza del suo ministero, quante saranno commissariate? E siccome proprio ieri abbiamo avuto ospite il costituzionalista Savino Cassese, che è molto scettico sul fatto che un commissario acceleri i lavori, siccome quello che interessa agli italiani non è l'annuncio che ci saranno 130 infrastrutture strategiche da fare, ma i tempi nei quali si pensa ragionevolmente di realizzarle, le chiedo di farci un quadro di quello che attiene alla sua responsabilità. Ma allora, noi abbiamo presentato in Consiglio dei Ministri un lavoro che arriva, diciamo così, dall'inizio del nostro mandato. Abbiamo fatto un monitoraggio su quello che secondo i nostri criteri riteniamo essere necessario per il Paese. Questo quadro, che appunto nasce nell'autunno dell'anno scorso, è stato abbondantemente integrato e revisionato alla luce della vicenda Covid, che ha condizionato e continuerà a condizionare l'assetto trasportistico nazionale e europeo, come potete vedere. E quindi, alla luce di queste due valutazioni e dei criteri che ci siamo dati, il primo fra tutti è un poderoso investimento per superare le disuguaglianze infrastrutturali tra nord e sud e tra est e ovest, perché c'è una disuguaglianza soprattutto nelle aree interne macroscopica molto evidente. Sulla base di questo ne abbiamo presentato questo piano, che ha una sua estensione temporale in un documento formale che va al Parlamento, che è l'allegato infrastrutture al piano nazionale di riforma, ma che ha invece un suo nocciolo sostanziale che riguarda invece un numero di anni inferiore, cioè i prossimi 4-5 anni, che è appunto Le posso fare un esempio? Mi perdoni, Ministro. Opere strategiche. Sì, mi scusi. Che rispondono ad alcune di queste caratteristiche. Le posso fare un esempio, perché così ci capiamo anche con i nostri ascoltatori. Allora, ero bambina e per arrivare da Roma al mio paese, Sabaudia, ci si metteva esattamente quello che ci si mette ora d'estate, oggi, anche 3-4 ore. Vedo che è compresa tra le 130 infrastrutture il collegamento autostradale Roma-Latina. Ma lei è in grado di fare una previsione entro quanti anni? Perché purtroppo non parliamo di tempi brevi, immagino. Allora, però dacci un'idea. La pontina, come diciamo così nel gergo, è individuata la Roma Latina, ha queste caratteristiche. Primo, è nel piano Italia Veloce, che era quello che vi stavo descrivendo prima, cioè queste 130 opere strategiche sulle quali ci saranno accelerazioni e una poderosa spinta del governo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Dentro queste 130 opere ce ne sono un numero decisamente inferiore che verranno commissariate. In parte 10 sono già state commissariate per legge, ok? Quindi c'è un, diciamo, io raccolgo un'eredità di altre legislature, di altri governi, in parte sono scelte che abbiamo fatto noi e in parte sono scelte fatte sempre sulla base di criteri molto molto molto precisi, richieste fatte da parte di alcuni specifici diciamo territori. La pontina ha una storia complicatissima sul piano giuridico, perché da circa 18 anni si alternano sentenze che peraltro sulla base delle normative vigenti in quel momento ovviamente danno risultati totalmente diversi tra di loro. Quindi non è l'esempio giusto. Noi abbiamo liberato la pontina dal carico giuridico. Stiamo divenendo con la Regione Lazio ad un nuovo assetto societario di quella concessione che era una concessione autostradale, e con il nuovo assetto societario daremo avvio alla parte finale della progettazione e all'assegnazione dei lavori. Questa attività verrà fatta dalla nuova società e da un commissario che nominerò non appena entrerà in vigore il decreto. Ok. A proposito del decreto, Ministra, questo è un po' il tema. Approvato salvo intese, e quindi quando avremo la versione definitiva, perché poi dalla versione definitiva dipende tutto il resto, perché poi deve andare in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento si muove qualcosa, ma più facilmente le amministrazioni immagino che aspetteranno l'approvazione definitiva da parte del Parlamento. Insomma, è un po' lunga. Se parliamo di opere pubbliche, allora, premesso, questa è una discussione che faccio sempre con mio marito, non si offenda, ma 60 giorni di conversione del decreto e di rispetto del ruolo del Parlamento non possiamo definirlo un po' lunga. Scusi se mi permetto, ma no, però mi scusi se, no, quello che dico è che se la scadenza delle nuove regole per velocizzare gli appalti certo, però la democrazia è la democrazia, al 31 luglio del 2021, capisce che se poi le regole entrano in vigore a gennaio, sa com'è. Ma il segreto, diciamo così, la cosa che ho visto nessuno ha sottolineato, che invece io ho molto sottolineato in Consiglio dei Ministri, è che i primi due articoli, quello sotto soglia e quello sopra soglia, che è quello sul quale dobbiamo lavorare ancora un pochetto sul testo dopo l'approfondimento che abbiamo fatto anche in Consiglio dei Ministri, sono due articoli che per le stazioni appaltanti, che sono i soggetti giuridici che devono fare le gare di piccole e grandi dimensioni, sono autoapplicativi. Cosa vuol dire? Che non c'è bisogno di nessun decreto. Quindi queste due norme potranno essere utilizzate il giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, perché i decreti diventano operativi il giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale. E quindi io immagino la stazione appaltante di una città che deve completare un secondo lotto di una strada, di un'opera che serve a quel territorio, il giorno dopo potrà utilizzare quel meccanismo semplificato e semplificatorio, sempre che ovviamente abbia le coperture finanziarie per fare l'opera e abbia i progetti. Naturalmente, ma quando arriva la versione definitiva del decreto, Ministro? Io credo che nei prossimi 2 o 3 giorni, già ieri abbiamo lavorato, nonostante diciamo così un po' di stanchezza a causa della nottataccia lunghissima, abbiamo lavorato già ieri, secondo me ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura del salvo intesa nel giro di pochi giorni. Poi ovviamente il Presidente è fuori ed è bene che ci sia anche lui presente quando si completerà. Comunque ha detto lavoro. Conte che saranno, sono i tecnici che se la devono vedere ora sulle parti salvo intese, però problemi politici oggettivamente durante il Consiglio dei Ministri il clima era veramente positivo. Tenete conto che il punto di partenza su alcuni degli argomenti presenti in questo decreto, parlo dei miei ma potrei parlare anche di altri capitoli di questo decreto semplificazioni, già solo qualche mese fa sembravano punti di partenza inconciliabili. Ricordo le polemiche sui giornali, come faranno sulle infrastrutture, sulle gare, sulle opere. Io credo che con tutti i limiti di questo, quello che vi sto per dire, una sintesi piuttosto alta e abbastanza semplificata, non cervellotica, ecco, il mio timore era quello di arrivare a quei compromessi un po' cervellotici, no? Io ce l'avevo nei mesi scorsi questo timore. E invece non è andata così, lei dice. Che con tutti i limiti, perché la perfezione la lascia agli altri, io non ce l'ho. Ho un limite da porle, appunto, le posso portare un limite. Senta, ministra, senta, il presidente dell'ANCE, Gabriele Buia, fa presente che è contento delle norme nuove che sono state emesse sull'abuso di ufficio, sul danno erariale, le semplificazioni, però si chiede, ma la burocrazia continuerà però ad avere tempi lunghissimi per dare una valutazione? Cita per esempio la valutazione di impatto ambientale, per la quale, dice il presidente dell'ANCE, a volte occorre un anno. Ecco, su questa obiezione, a questa obiezione del presidente dell'ANCE, che cosa risponde? Ma premesso che, come vi è noto, queste decisioni dipendono sempre dal Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente in quel testo è addivenuto dal articolo 37, 38, insomma ci sono 2 o 3 articoli, ad una semplificazione e anche all'imposizione alla commissione VIA, perché c'è una commissione che valuta l'impatto ambientale, di termini perentori per poter emettere queste autorizzazioni. Inoltre noi mettiamo in campo anche abbastanza di frequente, devo dire, meccanismi che compongono i contrasti. Insomma, vi faccio un esempio, c'è un pezzo della Olbia Alghero sul quale c'è una valutazione dell'impatto ambientale che mi determinerebbe la riscrittura di un progetto che renderebbe la nuova strada, l'aggiustamento della strada, la sistemazione della strada più pericolosa di quanto non fosse prima. E abbiamo concordato con Costa che andremo in Consiglio dei Ministri per superare quelle obiezioni e per realizzare il progetto che rende la strada sicura. Quindi esiste un punto, diciamo così, tecnico, e poi esiste anche la scelta politica, e la legislazione attualmente ci consente di fare delle valutazioni come di, quelle che vi ho appena descritto. Sì, di trovare delle, delle sintesi politiche, di trovare delle sintesi politiche, dice lei. De Michele, abbiamo tempo solo per un'ultima domanda. E l'ultima domanda è quella... Avrei tante cose da raccontare. Lo so, però purtroppo sono noiose, no? No, beh, però appassiona ai tecnici, ma non so quanto possa essere. Guardi, l'ultima domanda è sulla situazione delle autostrade in Liguria, sulla situazione dei controlli e sul disastro che abbiamo visto negli ultimi 20 giorni, che è oggettivo, no, quello che abbiamo visto. Là venite accusati voi del Ministero delle Infrastrutture di aver dato delle indicazioni nuove, diverse, più stringenti proprio a ridosso della fine del lockdown, costringendo Autostrada a fare questi controlli più intensi. Diciamo che intanto questi controlli andavano fatti 10 anni fa, che così, no? Partiamo da un presupposto, ok? Cioè, noi abbiamo avuto, l'ho detto da tempo, noi abbiamo avuto un rapporto tra controllore, lo Stato e i concessionari che per molti anni, ok, non è stato all'altezza della custodia del bene autostradale. Allora, noi quando siamo arrivati siamo stati i primi, dopo decenni, a impostare un lavoro sulla sicurezza con criteri omogenei per tutti, non solo per Autostrade per l'Italia. Vale per tutta Italia quella roba che abbiamo fatto, cioè le linee guida sulle gallerie, sulla sicurezza delle gallerie e dei viadotti. Bene? Allora, sì. Ovvio, noi appena abbiamo avuto la prima mappatura, la situazione, da gennaio abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di fare gli interventi. Il tema della modalità degli interventi è legata al fatto che ad oggi formalmente c'era in vigore la circolare del 67. Sì. Questa la dice lunga sul fatto che vi sto dicendo una cosa vera, no? Ecco, sì. Il 67 che imponeva una modalità di controllo a vista. Quindi vuol dire che tu le onduline te le devi smontare una a una. Sì. Voi avete idea cosa vuol dire smontare le onduline di 156 gallerie? Lo so, chiaramente. Allora, noi abbiamo detto fin dall'inizio che saremmo addivenuti, per noi andava bene anche un controllo con le nuove tecnologie, cosa per la quale, oltre che in termini, diciamo così, di proposta diretta, siamo addivenuti ad una circolare dove abbiamo detto: per semplificare e accelerare i controlli possiamo utilizzare nuove tecnologie, georadar, tutta una serie di strumenti che ci sono stati suggeriti. Quando arriva, dobbiamo veramente chiudere, Ministra, quando arriva la riprogrammazione dei controlli? Intanto nel decreto semplificazione c'è una norma che dice che gli interventi verranno programmati sulla base della gravità. In 5 secondi per la Liguria. Non ce la facciamo, facciamo in tempo. Nei prossimi 10 giorni. Noi nei prossimi 10 giorni terminiamo tutti i controlli e perfetto. La programmazione degli interventi derivanti dal risultato dei controlli potrà essere fatta da qui fino alla fine dell'anno, come grazie. Era nelle nostre aspettative. Quindi gli automobilisti in Liguria torneranno entro a 10 giorni. Grazie Paola De Micheli, dobbiamo veramente chiudere. A domani a tutti, ciao.